Ma anche l'ora più buia passa, e proprio mentre i preoccupati membri della diocesi iniziavano a temere un attacco di appendicite, incapaci di ascrivere ad altra causa il motivo della scomparsa del vescovo dalla scena pubblica, egli emerse dal primo stadio di indignazione, accostandosi a una regione di gelo, dove ancora rinchiuso nella sua camera cercava conforto nella preghiera. Un vescovo, e in verità qualsiasi uomo che sia davvero probo e che rivesta una carica pubblica, ha a disposizione limitatissime opportunità di conforto. In verità, volendo attenersi alle regole del decoro, egli ne ha solo due: la preghiera e la moglie. Nel suo caso, però, la moglie non era disponibile per via del divano. Per la prima volta da quando l'aveva sposata, la questione del divano fece irritare il vescovo oltre misura. Si disse che la moglie di un prelato, per quanto sofferente, ed egli, con la semplicità propria di qualsiasi uomo in merito a tali questioni, credeva ciecamente nella sua sofferenza, avesse il dovere di rendersi disponibile a una schietta chiacchierata. Pensava che un prelato e qualsiasi altro uomo che fosse davvero probo e che rivestisse una carica pubblica non potesse di certo condurre una conversazione schietta con nessuno sulla faccia della terra, eccetto che con la propria moglie, senza perdere dignità. O qualora la conversazione fosse diventata eccessivamente schietta senza perdere la propria carica. Ecco il motivo per cui molti prelati si erano sposati, mi disse. Del resto era comprensibile che anche gli uomini migliori sentissero il desiderio di parlare in modo del tutto franco, considerò. Il fatto che Ingeborg, abbandonando ogni decenza, fosse fuggita scandalosamente di casa e ancor più scandalosamente si fosse lasciata irretire in terra straniera da quel furfante di derivazione ecclesiale, unitamente a quell'altro fatto, cioè quello di sollevare le mani davanti ai suoi occhi e con faccia tosta accusarlo, accusare lui, il suo stesso padre, di essere la causa del loro tremore, aveva lasciato il vescovo sgomento, quasi come se il sentiero che attraversava il giardino su cui aveva passeggiato piacevolmente per anni, si fosse spalancato all'improvviso sotto i suoi piedi, formando una voragine, e da lì una sorta di occhio avesse preso a fissarlo. Egli aveva ordinato di costruire il sentiero, aveva pagato per mantenerlo ben curato e in buon stato. Il minimo che si aspettava in cambio, quindi, era che se ne stesse tranquillo e continuasse a servirlo. Se ora un terremoto l'avesse sconvolto, pregiudicandone l'utilità, doveva pure essere colpa di qualcuno, e il suo istinto gli suggeriva di recarsi dalla moglie per dirle come la ritenesse responsabile dell'accaduto. C'era però il divano. Desiderava ardentemente conversare con sua moglie, sentiva l'assoluta necessità di avere almeno 5 minuti di franca conversazione con lei. Voleva sincerarsi del modo in cui Ingeborg era stata allevata e della quantità di punizioni impartitele nell'infanzia. Intendeva essere informato sulla vera natura del contributo materno all'educazione morale della figlia. Era sua volontà illuminarla sui doveri di una madre, nonché spiegare il proprio punto di vista sulle conseguenze di certe trascuratezze. Gradiva inoltre portare l'attenzione di sua moglie su quanta poca importanza lei sembrasse attribuire all'aver da lui ricevuto un cognome, che con il tempo era diventato celebre, e anche un tetto. E ricordarle che grazie ai doni di cui egli stesso era dotato e alla misericordia divina, non era un tetto ordinario, ma quello di un palazzo e che il minimo che si potesse aspettare in cambio, in breve, desiderava parlare. Ma quando, sotto la spinta di quell'impulso, si recò nella sua stanza per far breccia nella barricata costituita dal divano, non solo trovò Richards che ronzava attorno alla moglie prodigandosi in ogni cura, ma anche il medico. Infatti, Mrs. Bullivant, nel prevedere il naturale desiderio del marito di affrontarla a quattro occhi, aveva convocato il dottore, un uomo estremamente ben addestrato, che le stava giusto prescrivendo completo silenzio. Fu così che, frustrato e privato dello sfogo che l'uomo più predilige, andò in cerca di uno sfogo alternativo, ritirandosi in preghiera e deponendo ai piedi dell'Altissimo le penose questioni che racchiudeva in petto. In ginocchio nella sua camera, egli chiese con ardore il perdono per la sua caduta verso gli istinti primordiali e la restituzione della sua autostima. Che cosa ne sarebbe mai stato di lui, infatti, senza la sua autostima? Aveva vissuto con essa in tale intimità e così a lungo. Desiderò che quei momenti degradanti in cui aveva sentito le mani formicolare per l'ansia di percuotere fossero cancellati e dimenticati. Richiese aiuto affinché da quell'istante in poi potesse rientrare in possesso della sua padronanza. Implorò affinché gli fosse elargito il dono della pazienza. Pregò pregò affinché gli venisse donata la capacità di esercitare pienamente il proprio autocontrollo. Dopo 2 giorni in cui ogni minuto libero era trascorso in preghiera, sedette su una sedia e si disse che il principale inconveniente posto da quell'azione, se così si poteva dire con tutta la riverenza possibile, era che si trattava di un atto unilaterale, di una sorta di monologo, mentre a lui, dato il genere di guai in cui versava, necessitava l'assoluta certezza dell'ascolto divino. Temeva infatti di non aver ancora beneficiato di alcuna forma di attenzione, poiché, pur essendosi ritirato in meditazione, pur avendo pregato e supplicato con fervore, continuava a sentire l'insopportabile desiderio di afferrare la figlia per le spalle e scrollarla con tutta la sua forza. Uno dei motivi per cui la sua irritazione non accennava a scemare era che gli affari della diocesi stavano piombando in un disordine sempre più irrimediabile. Per tutto il tempo in cui era stata lontana da casa a vagabondare, per tutto il tempo trascorso da quando era tornata, nonché durante quello in cui sarebbe stata ulteriormente indisponibile, vale a dire fino a quando non avesse mostrato il più sincero pentimento, la sua corrispondenza cresceva in mucchi disordinati e l'agenda dei suoi appuntamenti era come una landa oscura e desolata in cui smarrito brancolava nel buio. Il cappellano e il dattilografo lavoravano al loro meglio, ma non avevano certo fatto pratica presso di lui tanto a lungo quanto sua figlia. Inoltre non possedevano quella mancanza di iniziativa che rende la donna così adatta al ruolo di segretaria. Ingeborg, non dotata di quella che viene definita una mente brillante, non era distratta da altri pensieri. Il dilemma di dover scegliere tra possibili alternative non l'aveva mai sfiorata, pertanto non era mai stata sua abitudine disturbarlo per sottopor i suoi suggerimenti. Era scrupolosissima, rispettava ogni particolare, anche quello apparentemente più insignificante, aveva buona memoria, non solo sapeva bene ciò che era necessario fare, cosa abbastanza semplice, ma anche quali fossero le priorità. E dato che sia il cappellano che il dattilografo erano uomini pieni di idee, invece di assisterlo lungo quel percorso rettilineo, sebbene angusto, che è spesso l'unica via che conduce al traguardo, ivi incluso, ricordò al vescovo, il traguardo del paradiso, essi guardavano costantemente a destra e a sinistra, lasciandosi assillare dal dubbio, soppesando ogni possibilità, esitando su ogni questione. Il cappellano osservava i problemi con lo stesso numero di occhi di una mosca, considerandoli da altrettante angolazioni. Giustizia, opportunità, il probabile punto di vista della controparte, una pari correttezza per entrambe. Tali questioni gravavano sopra ogni lettera innevasa, provocando lungaggini interminabili. Le vibrazioni prodotte dalla voce suadente del cappellano, un giovane uomo istruito di ampie vedute, riecheggiavano subito in quella del dattilografo, anch'egli proveniente da Oxford, al quale era stata offerta un'opportunità di vicinanza al più famoso vescovo del paese, a un'età così giovane che il latte dello studente fresco di diploma non si era ancora asciugato sulla sua bocca eloquente e irrisoluta, conferendo un sapore stucchevole. Trovava il vescovo irritato a qualsiasi cosa esse pronunciassero. Il vescovo sentiva che se quella situazione fosse perdurata, l'attività della diocesi avrebbe subito una battuta d'arresto. Tra 10 giorni la sospensione dei lavori in occasione della Pasqua sarebbe giunta a termine ed egli sarebbe dovuto tornare alla Camera dei Lord, dove aveva in programma un discorso sul disegno di legge relativo agli affari interni, considerato dal punto di vista della semplice fede. Come avrebbe potuto lasciare le cose a casa così ingarbugliate, e come avrebbe potuto trovare quella pace dello spirito, quella mente limpida e sgombra da turbamenti, necessaria per affrontare tale compito, e ciò che eterno errava in continuazione attorno a Rochester, la crescente confusione, cremava sul tavolo del suo studio. Lo spettro di Ingeborg lo seguiva incessantemente. Quando accaldato e arruffato per la preghiera si immergeva di nuovo nel suo lavoro, non riusciva a sbrigare un solo compito senza che qualcosa gli rallentasse come non fosse supposto. In particolare lo obbligavano a pensare alla fede in ogni momento della giornata. Era una cosa innobile, ma senza di lei si sentiva come un attore che non aveva imparato la sua parte contando solo sull'aiuto del suo genitore, si ritrova sul palco e scopre che quest'ultimo è già morto nel suo cubicolo. Per lui Ingeborg era come morta, morta per aver peccato con tremenda ostinazione. Divinità imponeva quindi che rimanesse in tale condizione fino a che fosse venuta da lui di sua volontà. Per comunicargli di aver chiuso quella terribile faccenda del pastore della Prussia orientale. Non sapeva se ciò sarebbe bastato a convincerlo a perdonarla. Probabilmente avrebbe procrastinato quella concessione quale misura disciplinare, dopo aver implorato il cielo di mostrargli la strada. ma avrebbe senz'altro potuto consentirle una certa dose di resurrezione, sufficiente a permetterle di sedere alla sua scrivania ogni giorno per riportare ordine a quella confusione, la cui causa del resto era imputabile soltanto alla sua malvagità. Riteneva comunque opportuno, almeno per un certo periodo di tempo, ricomporla nuovamente nella sua bara alla sera. Dopo tale risoluzione, riuscì di nuovo a pronunciare le parole povera ragazza e a provare pietà per lei. E non era ancora arrivata la fine della settimana, con la domenica sempre più incombente, che le sue preghiere iniziarono a ricevere risposta ed egli prese a rientrare in possesso di buona parte della padronanza sulla eloquenza, se non sui pensieri, sufficiente a farlo riapparire fra i suoi familiari, mostrando quantomeno un misurato atteggiamento di riservatezza. Pur senza rivolgerle la parola, riuscì a baciare la fronte di Ingeborg alla sera e al mattino e a impartire il segno della croce su di lei, come era sua consuetudine sin da quando era bambina. Presenza evanescente, gli appariva più piccola che mai, dandogli la curiosa sensazione di un vestito nuovo, sormontato da una testa che camminasse in giro per la casa. Osservandola a sua insaputa, il desiderio di scuoterla fu infine mitigato dalla percezione che non vi sarebbe stato nulla da scuotere. Sarebbe stato come sbatacchiare semplici vestiti, abiti senza un corpo che li riempisse, e il probabile risultato sarebbe stata parecchia polvere, ma ben poca soddisfazione. Si sentì sollevato nel notare che anche lei doveva aver trascorso un periodo di dura prova. Che non solo i suoi vestiti apparivano vuoti, ma anche il viso sembrava rimpicciolito e l'incarnato era ora estremamente pallido. L'aspetto della figlia lo colpì come davvero poco attraente, totalmente votato per mano della provvidenza a una felice vita familiare. E pensare che quell'esserino da niente, quel minuscolo non nulla, povera creatura. Il sabato pomeriggio si risolse a compiere il primo passo sulla strada del riavvicinamento e a stabilire con lei un contatto dal pulpito. Quel giorno, prima del sermone, assicurò a se stesso molte volte che gli unici sentimenti che lo animavano in quella triste vicenda erano la preoccupazione per la propria figlia e il dolore insopportabile. Sapeva per esperienza che quando lo si occupava il pulpito era luogo di pace e conforto. Era stata infatti proprio l'eloquenza che da lui scaturiva quando saliva sul pulpito che aveva spronato la sua ascesa verso il sommo pinnacolo della chiesa. Lì, in quel sito per lui familiare, benedetto al tempo stesso, un luogo libero da controversie, purificato da ogni contraddizione, dove le emozioni personali non trovavano alcun punto d'appoggio per via di quella saggia usanza che impediva alla congregazione di rispondere all'oratore, sentiva di dare il massimo di sé. Per esprimere questo concetto in parole semplici, parole usate nei suoi giorni di giovane studente, nel pulpito egli poteva lasciarsi andare a tutta velocità. Era infatti proprio quanto sfrecciava tutta birra che il vescovo riusciva a dare il meglio di sé. Quella domenica si rivolse in particolar modo a Ingeborg, dicendosi che quanto usciva in modo così diretto dal suo cuore doveva per forza entrare in modo altrettanto diretto in quello di lei. La Bibbia era molto chiara e descriveva con franchezza i rischi che lei stava correndo. Le svariate penitenze contemplate per certi peccati erano tutte molto severe. Non che i predatori di un altro tempo e i rapaci di una diversa vallata, aveva scelto come testo per la predica quel passo della Bibbia, piuttosto quel brano che l'aveva colpito in particolar modo tratto dai proverbi. I predatori della vallata li sceglieranno e i giovani rapaci si ciberanno del loro corpo. Potessero, come per miracolo, apparire a Leicester, sebbene anche su quel punto il vescovo riteneva che non vi fosse ormai più nulla di certo. Ma vi erano, spiegò, predatori spirituali e rapaci inviati da una misericordia pietosa in vista della fine imminente, la cui opera era ancora più completa e devastante. Implorò con fervore i membri del suo gregge, che sapevano essersi macchiati del particolare peccato a cui si riferiva il passaggio di chiedere perdono ai propri genitori prima che il cielo si interponesse. Affermò che massicce dosi di incoraggiamento, più di ogni altra cosa, erano necessarie se le persone anelavano a vivere la vita con pienezza e a trarre da esse i massimi risultati. E quale forma di incoraggiamento poteva essere migliore di un perdono pieno e incondizionato? La Bibbia, spiegò, avallava in pieno quel concetto, tant'è che il padre del figlio il prodigo non aveva esitato nemmeno un attimo nel concedere il suo incoraggiamento. Sembrava difficile supporre che un padre potesse eguagliare la prodigalità costituita dal miglior mantello, dall'anello, dai calzari e dal vitello grasso. Eppure si sentiva certo, anzi sapeva, che vi erano dei padri in quell'esatto istante, proprio in quella città, esattamente in quella stessa cattedrale, pronti a elargire tutto quello, se non di più. Chi poteva desiderare di punire il proprio figlio tanto amato, l'anima che Dio aveva affidato alle mani paterne affinché venisse mondato dal peccato in vista del paradiso? Ognuno conosceva, per via della propria esperienza, e tutti coloro che un tempo erano stati bambini dovevano saperlo, quanto acuto fosse il dolore per la consapevolezza di aver errato, un dolore certamente pari a quello di una ferita sanguinante. E non era forse il perdono e non la punizione proprio quello che ci voleva in quel momento, in quell'istante di pentimento, di ferita stillante sangue nel proprio cuore, per rimettersi velocemente in piedi e fare ancora meglio di prima? Un perdono pronto e incondizionato costituiva una delle principali necessità della vita, enunciò il vescovo con voce calda e vibrante. Ciò di cui avevano bisogno i poveri figli. I poveri, fragili figli e bambini, così infinitamente proni all'errore, così infinitamente in difficoltà a risollevarsi da quella polvere, non era altro che un continuo voltar pagina sugli errori di ieri, una quotidiana concessione da parte dell'autorità della cosa più fortificante di tutte, il dare inizio a una nuova vita. Egli affermò, il bel viso illuminato da un'espressione ardente, che una giusta punizione era indispensabile se si voleva agire bene e contribuire al benessere del mondo, non meno indispensabile di una colazione abbondante e nutriente. E qui la congregazione fu percorsa da un fremito nell'udire quel tocco familiare, se si voleva affrontare bene la giornata. Tuttavia, diminuire con una punizione le possibilità di un essere umano di distribuire gioia nel mondo sarebbe stato un grave spreco. Che crudeltà allora, obbligare con la propria testardaggine un padre a infliggere quella punizione. Che crudeltà e scelleratezza ostacolarlo nel porgere al figlio la propria offerta incondizionata, il miglior mantello, l'anello, il vitello grasso. Che gravosa responsabilità avevano i figli nei confronti dei loro padri, commentò il vescovo, che da molti anni aveva cessato di essere il figlio di qualcuno. Aggiunse poi che quello era un sermone destinato ai figli in errore, alle anime smarrite. Qui siamo tutti figli, spiegò. E se siamo stati in vita così a lungo da non avere più la possibilità di chiamare padre qualcuno, saremo tutti ugualmente sino alla fine i figli del regno dei cieli. E poiché ognuno dei presenti era necessariamente figlio di qualcuno, ma non era altrettanto certo che ogni singola anima in ascolto fosse invece padre di qualcuno, disse che desiderava dedicare alcune parole ai padri e ricordar loro le infinite conseguenze dell'amore. Punire i vostri figli significa far sì che il loro pentimento si inacidisca dentro di loro. Non puniteli, amateli, amateli ininterrottamente, generosamente, se occorre ostinatamente. Sgretolate la loro caparbietà, così come un giorno fu sgretolata la roccia, percuotetela con il bastone della generosità. Date loro una possibilità affinché nei loro cuori sgorghi il più vivo pentimento. Ricordate che generosità porta generosità, amore porta amore. Mostrate il vostro amore, mostrate la vostra generosità. Perdonate senza chiedere nulla in cambio, con magnificenza. Oh, fratelli miei, giovani figli pentiti, che cosa non si farebbe, che cosa non si potrebbe fare in cambio dell'amore? Nel pronunciare le frasi conclusive, il viso del vescovo si girò verso la luce proveniente dalla finestra sul lato della cattedrale orientale a ovest. La voce fremeva per l'emozione. Aveva scordato i predatori e i rapaci, poiché non permetteva mai ai suoi incipiti di turbare le conclusioni, ben sapendo che la congregazione se ne sarebbe scordata a sua volta. La sua arte, che consisteva nella capacità di raggiungere i cuori dei semplici, era ineguagliabile. Tutto gli veniva in aiuto: l'aitanza, la voce vibrante e anche il modo manifesto in cui le sue stesse parole lo commuovevano. Il dattilografo, mentre ritornava a palazzo con il cappellano attraverso il giardino disseminato di margherite entro la cinta della cattedrale, non convenne con lui riguardo al fatto che un corso a Oxford sarebbe potuto risultare utile al vescovo. Riteneva invece che l'avrebbe rovinato e scommise 20 a 1 con il cappellano che quel pomeriggio Redchester sarebbe stata gremita di figli erranti che che avrebbero molestato i loro padri con pressante richiesta di perdono. Così fu, e Ingeborg fu una di loro. Capitolo 10. Lo aspettò al varco sulle scale dopo il tè. Padre, lo chiamò timidamente mentre lui la stava superando in silenzio. Sì, Ingeborg? Disse il vescovo, fermandosi e restando in attesa con la più grave attenzione. Desidero dirvi quanto sia dispiaciuta. Davvero, Ingeborg? Sì, mi dispiace tanto e mi vergogno di essere fuggita via così per quell'escursione. È stato un grave errore e ci sono andata con i vostri soldi per di più. È stato orribile. Io spero che mi perdonerete, padre. Senza riserve, Ingeborg. Sarebbe davvero triste se in fatto di perdono non fosse all'altezza del nostro modello supremo. Allora posso ritornare al lavoro? Solo quando mi direi di aver rotto il tuo fidanzamento clandestino. Ma padre, non ci sono mai, Ingeborg. Ma durante il vostro sermone avete detto. Il vescovo passò oltre. Spinta dalla veemenza che l'animava, Ingeborg si arrischiò a posare la mano sul braccio del padre, come a volerlo trattenere, con un eccesso di familiarità che risultava del tutto nuovo in quella famiglia avvezza da sempre all'irreprensibilità e alla compostezza. Ma padre, nel vostro sermone avete detto, insomma, come può porre delle condizioni un perdono senza riserve? Non è così che sono andate le cose nella Bibbia. E questo detto a lui che per natura, della sua alta carica, era un esperto in materia di perdono. Povera anima, povera anima. Avete raccontato voi stesso la parabola del figlio il prodigo. Suo padre gli perdonò tutto e forse lui aveva compiuto atti ben più gravi che recarsi a Lucerna. Non ci avete detto nulla, Ingeborg, riguardo a un fidanzamento clandestino, disse il vescovo procedendo con un passo un po' impedito lungo il cammino, ma come fu lieto di constatare più tardi del tutto calmo. Ma voi ne siete a conoscenza? Come può essere clandestino se voi ne siete a conoscenza? Di nuovo, Ingeborg, non vi sono mai. Ma perché non dovrei sposare un uomo virtuoso? Nell'impeto del momento, il viso della figlia, la quale lo stava inseguendo giù dalla scala senza ancora lasciargli il braccio, così ravvicinato al suo, gli apparve incredibilmente scialbo e poco femminile. E perché dovrei essere perdonata per voler sposare un uomo onesto? È legittimo desiderio di ogni ragazza. È stato così anche per la mamma e voi non avete mai detto che non avrebbe dovuto. Oh, continuò. Il vostro non è affatto un perdono senza riserve, non corrisponde a ciò che predicate. Voi ponete delle condizioni. La voce proveniente dallo zerbino divenne quasi un grido, incurante del fatto che Wilson potesse essere in ascolto. Com'era compiaciuto per essere stato capace di ignorarla con tranquillità ed infilarsi in pieno possesso del suo autocontrollo nella propria stanza. Com'erano fastidiosi quegli sconosciuti attacchi di sfrontatezza e quanto deplorevole il suo modo di ragionare. La poveretta avrebbe voluto godere i vantaggi e i privilegi di coloro ai quali è stato concesso il perdono, pur perseverando nel peccato che aveva decretato la necessità del perdono stesso. Desiderava, rifletté il vescovo, sebbene in termini più colti, mangiare la torta e al contempo conservarla tutta intera. Era mai possibile che non fosse ancora chiaro che un perdono senza riserve potesse essere concesso solo di fronte a un pentimento totale? Non era possibile concedere alcuna deroga per particolari diramazioni di peccato. Ogni ramo andava reciso senza indugio e il ramo, costituito da quel pastore della Prussia orientale, necessitava un taglio assolutamente netto prima che producesse in sua figlia una condizione di definitiva dipendenza. Ma il vescovo, nella sua stanza, pur mantenendo un contegno di apparente calma, provava un'intima angoscia. Il suo sermone aveva fallito. Era difficile scalfire il cuore di quella ragazza. Non sembrava nemmeno, pensò profondamente turbato, che le avesse concesso quasi una settimana di tempo per meditare indisturbata, per non parlare del fatto di averla avvicinata quel giorno, concedendole tutti gli esclusivi benefici che può offrire chi sta sopra un pulpito. Eppure, la sua guarigione non sembrava certo prossima. Era possibile che l'educazione impartita a lei non significasse proprio nulla? E l'ambiente in cui era stata allevata? E il sangue che le scorreva nelle vene? Doveva allora dedurre che il sangue dei vescovi, quel sangue che doveva di certo essere il più potente nello scongiurare le malefatte dei propri discendenti, non avesse alcuna forza. Il Il pomeriggio successivo era in programma un ricevimento presso il palazzo, indetto da Mrs. Ballivant in giorni di grande serenità, prima che si scoprisse di quale pasta fosse fatta Ingeborg. Si trattava di una festa in onore del fidanzamento di Judith e tutta Rochester, oltre a tutta la contea, erano state invitate. Niente avrebbe potuto impedire quell'evento se non una morte in famiglia. Qualsiasi morte, persino quella di Richard, sarebbe servita egregiamente allo scopo. Ma nulla di meno di una morte. Pensò all'afflitta signora, chiedendosi come avrebbe potuto superare indenne l'eternità di quel pomeriggio. Alle 4 meno un quarto arrancò sul divano per discutere gli ultimi preparativi con Richard, sapendo che 15 minuti dopo un'immensa ondata di invitati si sarebbe abbattuta sulla casa e che per almeno 3 ore le sarebbe toccato mostrarsi brillante e felice per via di Judith ed esplicativa. Benché comprensiva riguardo a Ingeborg, che aveva un aspetto decisamente troppo bizzarro per poter essere giustificato con una oramai trascorsa seduta dentistica. Si sentiva così affranta da essere incapace di arrestare un corso di pensiero secondo cui le risultava alquanto fastidioso che la morte di chi le stava attorno non avesse con maggior frequenza. Specialmente quella di certi domestici, tanto maldestri a sistemare i cuscini. In aggiunta a questo disagio, il rettore dell'Ananias, un uomo davvero impegnativo, si trovava a palazzo già dalla tarda mattinata. L'incombenza di intrattenerlo era ricaduta su di lei, essendo il vescovo, come al solito, impossibilitato a unirsi alla famiglia per pranzo, e Ingeborg, che in famiglia era l'addetta a occuparsi degli ospiti, caduta come era in disgrazia, non poteva farsene carico, mentre Judith, quella cara bambina, purtroppo non riusciva a dire mai molto in nessuna occasione. Il rettore era stato molto esuberante, la sua vitalità, deliziosa naturalmente, ma un po' eccessiva data l'età, le aveva ricordato che doveva riguardarsi. Com'era stato difficile spedirlo in giardino o in qualsiasi altro posto dove lei non fosse presente. Non era riuscita a mandarcelo che alle 2:30 del pomeriggio, dopo aver trascorso tutto il tempo ininterrottamente fin dal mezzogiorno incollato a lei, comportandosi in modo eccessivamente vitale. Alla fine aveva dovuto inventarsi l'idea di un pero in fiore, di cui non era affatto certa, riferendogli di aver sentito dire trattarsi di uno spettacolo impagabile, assolutamente da non perdere. Ma che fatica! Judith non sembrava per nulla desiderosa di mostrargli l'albero in questione ed egli non aveva nessuna intenzione di andare ad ammirarlo senza di lei. Alla fine Judith l'aveva accompagnato, ma con un'aria sul viso come di sopportazione, ben sapendo quanto poco opportuno fosse sbandierare quell'espressione prima del matrimonio. Si erano poi succedute a un'infinità di piccole questioni a cui badare per via del ricevimento, questioni del cui disbrigo si era sempre occupata Ingeborg, ma ora la sua collaborazione era stata messa al bando. Com'era stato difficile tutto quanto? Inoltre Mrs. Ballivan credeva fermamente che nessuno di comprovata temporanea malvagità dovesse ricevere licenza di dispensare i propri servigi a chi fosse perennemente devoto. Riteneva che quella persona dovesse venire relegata in un luogo esortante al pentimento e reso ancora più spazioso dall'assenza di ogni richiesta. Durante tutta la settimana trascorsa dal rientro della figlia, ella non le aveva permesso nemmeno di versare il tè, sia quando la lacerata famiglia era in intimità, sia quando riceveva un visitatore giunto per porgere le proprie congratulazioni a Judith. La povera Ingeborg non sta molto bene, avevano mormorato ogni volta, subito smorzando la naturale curiosità dei visitatori. Si era decisa già da quella prima sera in cui l'orrida consapevolezza del comportamento di sua figlia si era riversato in pieno su di lei a non chiederle più nulla, nemmeno di riempirle la tazza. Ma questo rendeva le cose difficili. Quando alle 4 meno un quarto riuscì a conquistare la sua posizione sul divano, si sentiva già esausta e sudata per lo sforzo richiestole dal ricevimento. A occhi chiusi, attendeva il momento in cui la prima ondata di vita si sarebbe abbattuta su di lei. Le nefaste previsioni si dimostravano azzeccate. Dovette dare spiegazioni riguardo a Ingeborg a ogni invitato, senza posa. Gli ospiti, chiamati a rallegrarsi per via di Judith, si sprofondavano immediatamente in festose lodi per quella visione di rara bellezza, ma terminavano puntualmente il loro eloquio informandosi su Ingeborg. Dopo aver chiesto che cosa avesse fatto negli ultimi tempi, ah, la terribile ingenuità di quella domanda, constatavano compassionevoli quanto apparisse sofferente. Povera piccola Ingeborg, ma si trattava davvero soltanto di quel fastidioso molare?